peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi parliamo di un grande, un gigante, di uno dei pilastri della storia del jazz, Charlie Mingus, quindi non è certamente un nome nuovo, ma l'occasione è la pubblicazione da parte di un'etichetta discografica decisamente pregevole, molto importante anche per le pubblicazioni che ha fatto. Si tratta della Mosaic, un'etichetta che in sostanza pubblica dei cofanetti a progetto, sono diversi i musicisti e le occasioni, come dire, gli episodi anche della storia, di tutta la storia del jazz nel Novecento e oltre, che vengono proposti dalla produzione. In questa l'occasione è stata per Charlie Mingus di prendere in esame una fase molto interessante della vita artistica e personale di Charlie Mingus. In sostanza fotografa un momento che precede la grande tournée che probabilmente è stato il culmine della carriera, anche della visibilità di Mingus, la grande tournée che fece nel 64 in Europa, dove venne peraltro anche a Bologna, una delle poche occasioni che non sono state registrate di questa tournée. E aveva una formazione di livello straordinario, l'equilibrio che aveva raggiunto questo gruppo e le musiche che venivano proposte erano di livelli straordinari. Poi, alla conclusione di questa esperienza, che ha visto peraltro anche la morte di Herb Dolphy, quindi l'impossibilità di ritornare da parte di Dolphy nel gruppo al ritorno negli Stati Uniti, alcune altre occasioni sono capitate, insomma le formazioni che si sono un po' succedute per un anno e mezzo circa, poi è seguito un lungo ritiro dalle scene da parte di Mingus, un ritiro che è durato più di 5 anni. Questa diciamo che è un po' la vicenda. L'immagine che viene proposta è intanto un concerto di prova, un concerto che aprì e precedette diciamo la partenza per la tournée europea, che si svolse il 4 aprile del 64 alla Town Hall. Questo concerto è stato in buona parte pubblicato anche a suo tempo, e qui lo si può ascoltare nella sua interezza, quindi sono diversi i brani inediti che sono presenti in questo ricco cofanetto di 7 dischi. E da questa occasione nella quale si può osservare con gioie straordinarie per le orecchie e per il cervello è la qualità artistica di questo gruppo, una compattezza espressiva di altissimo profilo. E il brano che ascoltiamo due brani presi da questo concerto, il primo e l'ultimo peraltro. E il primo è un brano in piano solo, e spesso Mingus dava compito dell'apertura nei concerti, anche nella tournée europea, dava il compito a Jackie Byard, un pianista strano, particolare, complesso, che riesce ad integrare perfettamente un linguaggio attento all'avanguardia, ma anche profondamente radicato nella tradizione, per esempio anche del New Orleans, quindi di tutti gli stili pianistici, ma anche con citazioni anche della musica classica, penso a Stravinsky, penso a Satie o ad altri. Ricordo la formazione, erano di Eric Dolphy alle anice, clarinetto, sax alto e vari tipi di clarinetto e di flauto anche. Poi un giovane Clifford Jordan, un giovane tenore, sax tenore, che poi legherà la sua carriera decisamente a questa esperienza, a questa formazione. Era un ottimo sassofonista che però poi non ha avuto il riconoscimento meritato, perché poi si è espresso al massimo in questa formazione, poi si è perso un po' per strada. Jackie Byrd, come dicevo, al pianoforte, anche lui con un ruolo primario, e Danny Richmond, il compagno di strada, praticamente di una vita di Mingus, e poi anche un giovane trombettista, Johnny Coles. Probabilmente Mingus cercava attraverso questa formazione anche di riprendere le atmosfere che erano state utilizzate, diciamo, da Mal Waldron in una formazione che proponeva Eric Dolphy alle anse e Booker Little alla tromba. Quindi era una formazione che decisamente ha avuto un'importanza fondamentale per la storia del jazz e che ha costituito un prologo a quello che poi sarebbe avvenuto appunto nel 64 con Charlie Mingus. Johnny Coles, come dire, ha qualche sapore del linguaggio di Booker Little, ma naturalmente non si avvicina alla sua grandezza, ma è adeguato, insomma, riesce comunque a fare il suo lavoro, ma soprattutto qui straordinario Eric Dolphy. E ascoltiamo comunque Jackie Byrd all'inizio con questa composizione improvvisata e poi successivamente ascoltiamo anche una dei classici di Mingus, Fables of Fogs. Thank you. Thank you. questo è il gruppo di Charlie Mingus alla vigilia della tournée europea del 64. Era registrato alla Town Hall, è una messa a punto della formazione che evidentemente è al massimo della forma. Le qualità individuali sono straordinarie, soprattutto Eric Dolphy e Jackie Baird, questo equilibrio, questa tessitura, oltretutto Baird imposta una costruzione modale sulla quale Dolphy poi si muove con una libertà e una straordinaria genialità. E quindi il gruppo parte in tournée per l'Europa, inizia, peraltro nel cofanetto è presente soltanto il primo dei concerti dati in Europa, un concerto che è stato pubblicato a suo tempo in un'etichetta bootleg, un'etichetta pirata, con una, peraltro una qualità pessima. E qui vede appunto la sua completa proposizione, alcuni brani non erano neanche stati pubblicati, e dà l'impressione appunto di quello che è stato, dà la cifra di quello che è stato poi questa tournée straordinaria. La tournée si conclude, Dolphy rimane in Europa, farà alcune cose con alcuni musicisti che erano in stanze in Europa, sia perché lavoravano con altri gruppi, sia anche perché abitavano. Per esempio, le ultime registrazioni sono con Anbennik e Mija Mangelberg in Olanda, ma poi muore prematuramente. Charlie Mingus deve rivedere, probabilmente c'è una crisi profonda anche dal punto di vista artistico, forse anche umano, ma insomma sicuramente dal punto di vista artistico, e deve rivedere completamente quella che è la timbrica e gli equilibri del gruppo, e ha difficoltà a trovare le sostituzioni, a cercare un equilibrio diverso. Anche il trombettista Johnny Coles, che peraltro abbandona il tour europeo per problemi di salute, ma non era certamente all'altezza delle aspettative, delle intenzioni di Mingus. Qui comincia una serie di sostituzioni. Ascoltiamo una registrazione che è stata fatta a Minneapolis nel maggio del 65, quindi l'anno successivo. In questo periodo si susseguono diversi musicisti. La formazione che si vede in questo concerto è con sempre Jackie Baird al pianoforte, Danny Richmond alla batteria, ma la parte, diciamo, dei fiati è con un giovane trombettista non certo molto conosciuto, Lonnie Hillier, e neanche peraltro particolarmente rilevante, pur corretto nelle sue capacità, e un giovane sassofonista che avrà una stagione, questa stagione di collaborazione con Mingus durerà per diverso tempo, e peraltro sarà anche quella che gli darà la possibilità di esprimersi al meglio. Rimane per esempio un punto interrogativo, che è quello dell'uscita di scena di Clifford Jordan, che pur si era comportato in maniera straordinaria anche nella tournée europea. Charlie McPherson è il nuovo sax, è un sax contralto, quindi evidentemente Mingus vuole questa sonorità, questo tipo di sonorità. McPherson cerca anche di seguire le orme di Dolphy, ma il suo spirito è diverso. Pur essendo un prosecutore del linguaggio di Charlie Parker, ma non ha certamente né la genialità né le capacità di Dolphy, e ne emerge un sassofonista bopper, un neo-bopper di alto livello, ma pur sempre legato a un linguaggio che ormai è superato, che sarebbe stato già superato anche per quanto riguarda proprio l'evoluzione che aveva avuto in quegli anni Mingus. Ascoltiamo un paio di brani presi da questo concerto, anche questi naturalmente inediti. Sono due composizioni, la prima è Copy City Titty, e la seconda composizione è Peggy Sue Skylight. Thank you. Thank you. Ecco, questo, ripeto, era il gruppo di Charlie Mingus a Minneapolis il 13 maggio del 65, con questa nuova formazione che vede in sostanza la parte delle anze affidata a Lonnie Hillier alla tromba e a Charlie McPherson al sax contralto. E Lonnie Hillier si rivela un bopper corretto, ma senza naturalmente una particolare personalità. E Charlie McPherson, anche lui, sicuramente una capacità tecnica espressiva di alto livello, e cerca anche di, come dire, di emulare perlomeno alcune dei fraseggi che erano più tipici di Eric Dolphy, ma senza riuscire poi a dargli un senso compiuto a questi. Ricorda una situazione molto bopper, e in sostanza quello che si può osservare, che probabilmente ha anche constatato Mingus, è che questo gruppo esprimeva un passo indietro rispetto a quello che era anche il livello artistico, il livello della ricerca espressiva che il gruppo dell'anno precedente di Mingus aveva raggiunto. Questa era nella situazione di quintetto. Mingus poi cerca anche altre timbriche, evidentemente non soddisfatto anche dal risultato, ricerca altre timbriche, approda una formazione più allargata. L'ultimo concerto che testimonia, o perlomeno uno degli ultimi che testimonia la musica di Mingus, nel 65, nel 18 settembre, ancora una volta al Festival di Monterey. Come l'anno precedente era stato protagonista, diciamo, di una session che peraltro era stata anche pubblicata in disco. In questo caso il concerto di Monterey del 65 era per gli appassionati, per i discofili, diciamo, è stato a lungo una delle ricerche, una delle attese che si aspettavano dagli archivi della moglie di Mingus, che finalmente poi ha visto la luce. Il risultato non è particolarmente importante, diventa interessante, importante soprattutto è una testimonianza di questo ultimo periodo, di questo momento che rappresenta un po' una sorta di conclusione di una grande stagione per Mingus. È una formazione allargata, e peraltro Mingus non c'è più Jackie Bard al pianoforte, ma spesso lo sostituisce appunto lo stesso Mingus, che amava poi anche cimentarsi col pianoforte, perché nella formazione sono presenti il basso tuba di Howard Johnson e il corno francese di Julius Watkins, quindi due pilastri, insomma, dei loro strumenti. Poi una formazione di tre trombe, però che sono Lonnie Hillier, ancora viene confermato, Hobart Dodson, ma soprattutto un giovane emergente, Jimmy Owens, che poi avrà una carriera importante, che qui lo vediamo, lo ascoltiamo un po' alle prime armi, però che dimostra già una padronanza, una capacità espressiva interessante. Ecco, naturalmente il solito Danny Richmond alla batteria e ancora Charlie McPherson al contralto, che diventa una sorta di accompagnatore costante di quegli anni, di tutto il periodo, tutto quel periodo per Charlie Mingus. Ascoltiamo questa composizione. Questo è un inedito, a differenza degli altri che abbiamo ascoltato, erano tutti brani che erano stati poi eseguiti precedentemente. Questo è un inedito che è dedicato alla terra sacra dei Sioux, la cosa che fa, come dire, che comunque è divertente anche pensare che Mingus proviene da anche antenati indiani, per cui anche questo probabilmente fa parte del gioco. Thank you. Questo era il concerto a Monterey, al Festival di Monterey, il 18 settembre 65, della formazione quasi orchestrale, diciamo una formazione allargata di Charlie Mingus. Mingus si cimenta al pianoforte. Un brano intrigante, anche molto, che sarebbe stato sicuramente un punto di riferimento interessante per Eric Dolphy. Ma diciamo che Charlie McPherson fa il possibile, però insomma il risultato è anche apprezzabile comunque di questa composizione e anche della realizzazione. Questo sarà praticamente uno degli ultimi concerti che terrà Mingus con il suo gruppo, ne farà alcuni altri che non sono stati registrati. L'unica altra registrazione, l'unica testimonianza in concerto della sua attività è dell'inizio del 66, curiosamente in un duo con Cecil Taylor. Questo sarà l'ultimo brano suonato in pubblico per diversi anni, infatti le apparizioni successive risalgono poi al 71. Il lavoro che ha rappresentato il ritorno di Mingus da questa lunga pausa, una lunga crisi artistica si può dire, il lavoro che segnò la fine fu un lavoro del 71 appunto, che uscì con un lavoro orchestrale che era Let My Children Hear Music, ed era stato un lavoro orchestrale peraltro importante, che ha rappresentato anche una svolta diciamo nella scrittura orchestrale, che è sempre stato uno dei punti di riferimento ai quali Mingus ha dato il massimo della sua attenzione e del suo impegno. Questo è anche il periodo, era l'ultimo brano per oggi, che raffigura appunto questo, che racconta questo percorso di questi due anni. Poi successivamente Mingus troverà una formazione valida che abbiamo ascoltato più volte anche a Bologna negli anni 70, e con musicisti anche di alto livello, ma a mio avviso non ha più ritrovato le punte massime che ha raggiunto appunto nel 64, con la formazione che poteva presentare nella tournée che fece in Europa appunto nel mese di aprile. E questo è tutto, la puntata era interamente dedicata a Charlie Mingus e al cofanetto della Mosaic che ha rappresentato questo periodo, un ricco cofanetto di 7 compact disc. La trasmissione la potete riascoltare nel nostro sito radiocittafugico.it nella sezione musica, potete riascoltarlo sia in podcast che trovare anche le indicazioni discografiche nella scheda. Questo è tutto e salve. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo.